SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, pochi minuti dopo le 22, buonasera a tutti da Blu Radio Veneto, da Gil Facchinelli e Maurizio Calzavara. Buonasera Gil, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Maurizio, ben ritrovato, va tutto bene? Bene, quando si trasmette, si fa, parla di musica, va sempre benissimo. Esattamente. E noi continuiamo sul nostro viaggio virtuale. Questa volta voliamo a Roma. Sì, voliamo a Roma. Meglio, Valerio è volato qui a Padova da Roma. Ho volato col treno. Poi è volato con il treno. Buonasera Valerio. Buonasera. Ti vedo in ottima forma stasera. Anche se hai viaggiato per 3 ore sulla Freccia Rossa, però stai bene fisicamente. Ciao Valerio, benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie. Valerio è un nostro fedele amico. Sì, è la quarta volta. È la quarta volta che ci viene a trovare, però sempre portandoci qualcosa di nuovo, di positivo. Sì, sì. E stasera ci porti un tuo nuovo disco. È un disco da solista, però non hai i pezzi d'assemblaggio vicino. No, stasera non ci sono questa volta. Stasera non ci sono. Hai deciso di fare un disco da solista. Un disco acustico, Acque Alte. Acque Alte. Folk e blues. Esatto. Già il titolo. Sì, già dice tutto, Acque Alte. Richiama i vecchi bluesmen. Sì. Richiama anche qualcosa del Bayonet, ma ne parleremo dopo, quando sarà il momento giusto. Sì, richiama il blues perché tu sei un... Tu ami il blues, il tuo DNA il blues, sì, c'è poco da fare. Il vero blues, il folk americano e italiano anche. Beh, hai cominciato un po' di tempo fa a fare questo, dal 97 all'incirca. Sì, sì, i primi demo erano nel 97. I primi demo nel 97, voce e chitarra, e poi ho conosciuto i pezzi d'assemblaggio, ho suonato con loro per 13 anni. Mm. E poi adesso sono tornato alle origini. Alle origini, però non si sono persi i pezzi d'assemblaggio. No, vanno e vengono, partecipano e vengono, ti danno una mano quando capita. Sì, sì. Una bella discografia quella di Valerio, composita tra la band e dalla solista. Stasera si presenta da solista, un po' malinconico posso dire. Malinconico? Sì, un solista malinconico. Dal punto di vista musicale. Non sembrerebbe. No, sempre, dal punto di vista malinconico, dal punto di vista musicale. Sono dei pezzi acustici. Adesso iniziamo con La passione di Pierpaolo Pasolini. È un pezzo bellissimo secondo me. Perché La passione di Pierpaolo? Perché Pierpaolo, qui c'è un dialogo tra Pierpaolo e sua madre, non è così? Sì, nel momento della morte. Nel momento della morte. Come mai hai avuto questa idea? Me la raccontavi a microfono spento. Perché un giorno che passeggiavo per il ghetto di Roma, dove ci sono vecchie botteghe di fotografi, c'era una bellissima fotografia di Pierpaolo Pasolini con la madre. Lui era molto legato alla madre. E sono rimasto colpito da questa fotografia. Continuando a passeggiare, dopo 50 metri c'erano delle fotografie della morte di Pierpaolo Pasolini, del corpo. Del corpo, sì. Dopo che era morto, sì. Ridotto. Sì, ridotto, lasciamo a perdere come. E lì sempre quello è una cosa insoluta per anni, come e continua come tante cose italiane. Italia, sì, sì. Esattamente. E ho avuto come una specie di sussulto. Di sussulto. E al momento, la sera sono tornato a casa e ho scritto il pezzo. È scritto un pezzo molto bello, cari ascoltatori, molto cupo secondo me, una cupezza. Ah, è arrivato il nostro direttore. Buonasera, artistico. Buonasera Alberto. Il dottore. Ciao Alberto. Porta sulle spalle 3-0 della Roma. Sì, lo so, lui lo so. Qui si gioca anche di calcio, cari ascoltatori. Lui è romanista e qua il nostro direttore è interista, purtroppo. Dopo volevo fare una piccola parentesi. Se vuoi parliamo anche di animali questa sera. Di aquile, di lupe e anche di zebre, se Cosa anche di zebre soprattutto. E zebre vanno bene, l'aquile non hai. Dovete sapere, facciamo questa parentesi perché Valerio è un grandissimo tifoso laziale. No. Vado via. È terribile questa cosa. Stiamo parlando di cose serie, insomma. Sì, la Lazio è una cosa bruttissima. Cosa seria la Lazio? I bambini stanno a dormire, storia di parlare della Lazio. C'hanno l'incubi. E torniamo a Pierpaolo, che è meglio della Lazio. No, e poi c'è anche il film Il Vangelo secondo Matteo, sì. Dell'immagine della madre mentre muore Gesù, che è bellissima. Che era un rapporto forte con la madre, sì, da parte, sì, di Pierpaolo Pasolini. Ricordiamo che era di Casarsa, della Delizia, sì. Quindi era friulano. E io ho immaginato, che nel momento della morte lui, per me, ha pensato alla madre, è tornato bambino, perché nel momento del bisogno molti di noi tornano a... Certo. anche nel bisogno estremo, e ho fatto questo pezzo, non so poi quanto... A me è piaciuto, cioè io il disco l'ho sentito e la prima traccia ho subito sentito questo pezzo, ma mi ha dato un sussulto, perché ritornando il poeta meraviglioso, grandissimo come Pierpaolo, e tu hai descritto bene questo rapporto con la madre nell'ultimo momento, nel momento finale della vita di Pierpaolo Pasolini. Grazie. L'ho sentito bene, è un bel pezzo, dovete ascoltarlo attentamente perché il testo è validissimo. Adesso lo sentiamo assieme. Bacco e ghirlande di edere e fiori e un drappo rosso sotto i piedi. Il cielo è saturo di nuvole viola, tra ruote e stracci all'idroscalo. Mamma freddo, stringimi forte, ho la terra in bocca e le ossa rotte. Baciami gli occhi e fammi dormire, ho brividi ovunque, non riesco a vedere. C'è un corvo che vola e si posa sui rami, spogli piegati dai sogni e dagli anni. Fischia nel vento tra le strade vuote, lo puoi sentire fino al casale. Mamma, ho freddo, stringimi forte, ho la terra in bocca e le ossa rotte. Baciami gli occhi e fammi dormire, ho brividi ovunque, non riesco a capire. Mamma, ho freddo, stringimi forte, ho la terra in bocca e le ossa rotte. Baciami gli occhi e fammi dormire, ho brividi ovunque, non riesco a capire. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci, e a proposito prima di animali eccetera, siccome c'è anche Agostino Spolaore che ti sta ascoltando, mi ha raccomandato di salutarti, mi ricordava anche del biscione, però... fatto una finaccia. Ascolta Valerio, io volevo fare una piccola parentesi, no, piccolissima, avendo ascoltato anche un qualcosina prima di questa sera... ascoltando anche il brano di Pierpaolo Pasolini, di Valerio, ma dedicato appunto al Pasolini, questa, la musica, diciamo, è poesia. Cosa ne pensi anche del premio Nobel che si vuol dare a Roberto Vecchioni? Allora, faccio un po' dei nemici. Il premio Nobel è ovvio che la domanda non è una critica, è proprio rivolto alla musica, un omaggio a questa poesia nella musica. Allora, la poesia è una cosa, il cantautore, come diceva Dylan, è un'altra cosa. Certo, se bisognerebbe dare un premio Nobel a qualcuno, forse Bob Dylan come premio Nobel alla letteratura sarebbe la persona più adatta per rappresentare i cantautori. Molti anni che si propone questa cosa, ma sì, era nella lista in molti anni, però non viene mai fatto. Sarebbe, c'era Leonard Cohen, Bob Dylan ed altra gente, sarebbe un riconoscimento grandissimo. Roberto Vecchioni sarei contentissimo per lui, però ce ne stanno un po' potenti, potenti davanti a lui. Come una cosa dovrebbe venire. È un grandissimo casomai. Cantatore, per carità, però ce ne stanno abbastanza, molto più. Certo. Questo anche scrittori. Sì, ce ne sono parecchi. Poi i riconoscimenti, ognuno dal premio Nobel, cioè io ho il premio Nobel mio, tu c'hai il tuo. Per me i riconoscimenti sono cose un po' delle farze, non ho mai sopportato più di tanto. Però quando uno è nella lista del Nobel, è bravo, nella dice. Proposta, rimane sempre nella proposta del Nobel. Sì, sì. Diceva Vecchioni proprio l'altro giorno, domenica, sì, che abbiamo visto, esatto. Hanno fatto una specie di recita. Grandissima persona, poi persona umile. Sì, chiaramente lui ha detto: forse sarà per i 70 anni che ho io e per i 50 anni di musica. Lui ha fatto questa ipotesi. Grandissima persona, un maestro, però. È un maestro, sì. Però dice: non so, però c'era Leonard Cohen prima. per modo di dire, chiaramente sono i grandi americani, vabbè, è un'ipotesi, cioè è una qualcuno ha. Io volete danzo? No, assolutamente. Per me se non lo prende. In ogni caso non l'ha preso. No, ma è stato dato un altro il nome della sicuramente Valerio ti ha proposto un nome che a te non dispiace, Dylan. Ah, beh, indubbiamente. Ma Valerio è dilaniano in tutti i sensi, ma nel senso positivo del termine, cioè proprio Dylan collegato. Il suo punto di riferimento è Dylan. Sì. Anche se questo pezzo, caro Valerio, ricordavi certe cose acustiche del boss. Tom Jodd, esattamente, ricorda molto Tom Jodd in questo momento. Non è mica una cosa negativa, una cosa vacca, come si dice, è una cosa molto positiva. Soprattutto questo andare in questa ballata è molto Tom Jodd, assolutamente. È un grandissimo disco di ispirazione, anche quello. Bellissimo disco. Un disco sofferto da parte del boss. Sì. È un disco che ha avuto non il successo che meritava, perché non è il disco che dà la propulsione, la forza della band. È un disco acustico, un disco. Lui e la chitarra. Come Nebraska, grandissimi dischi. Anche nella struttura dei testi, anche Tom Jodd è molto sussurrato come disco. Esattamente. È ispirato tantissimo questa ballata, sì. Sì, c'è molto, ci sta. Anche il rotolare del pezzo sugli accordi in minore. Anche quello. Poi spiegare a chi non è proprio addentro il lavoro il rotolare del pezzo in mi minore, bisogna dirlo, se vuol dire. Ecco, il minore è questo. Eccolo là. Questo è il minore. E Dylan diceva che le canzoni tristi che trattano di cose dell'esoterismo del coso vanno fatte in minore. Perché è un certo mistero. Esatto, da un mistero. Questa è una cosa seria, è così. Cioè, questa mascherina, zitti tutti. Se invece fai col maggiore, è già più allegra. È più allegra. Vedi, ecco, più solare. Più solare, una ballata. Una popular song, possiamo dire questo. In ogni caso, questa è l'ispirazione musicale. Chiaramente, l'ispirazione effettiva l'abbiamo prima detta, il discorso di Pierpaolo, eccetera, della morte violenta e del rapporto, questo rapporto forte, fortissimo con la madre. È una cosa fondamentale non soltanto nella filmografia di Pasolini, anche nei suoi scritti. Nei suoi scritti, nella vita. Una mia curiosità è stata sempre sapere di più della madre di Pasolini, non ho mai trovato molte cose, perché molte notizie che aveva lui con lei. Mi ricordo una volta facevano un servizio con la stanza di Pasolini a casa, che raccontavano con la mamma, che era stata una cosa bellissima, perché dava proprio questo rapporto viscerale fra i due. Esattamente, un rapporto che è sempre continuato praticamente. Sì. Benissimo, adesso abbiamo... Me ne sono accorto ancora di più dopo che sono diventato padre. Ecco, vedi, quello prima non te ne rendi conto sulla tua pelle. Molto probabilmente, se non ero padre, questo pezzo non l'avresti scritto. Adesso passiamo a un'altra cosa. Da Pierpaolo passiamo a Solferino. Dagli a ridere. Solferino è una battaglia cruenta, proprio una delle battaglie più cruente del Risorgimento italiano. Sì. 15.000 morti austriaci, 20.000 morti italiani, un ossario spaventoso, una carneficina. Ma tu sei spettatore in questa battaglia. Sì. Non dai in giudizio il pacifismo o non pacifista, sei solo spettatore. Sì. Con un amore che si allontana, va e viene, ma anche l'amore, si viene, ritorna il mio amore, dice un verso, ho preso a poco. Ma lui non torna. Perché sta in guerra, la guerra è un'altra cosa dell'amore. La guerra è un'altra cosa. Si parla anche di disertore. Sì, perché lui diserta. E questa idea della patria, del coso, lui diserta, non regge alle ossa, un pezzo di ossa su ossa e sangue su sangue. Infatti c'è l'ossario che è terribile. È terribile. L'ho scritto una notte che ho visto il documentario, che facciamo vedere questo ossario con 11.000 ossa dentro. senza, per me è stata una cosa terribile. E questa è una battaglia del 24 giugno del 1859, sì, praticamente. E la battaglia in cui c'erano austriaci da una parte, francesi e italiani dall'altra parte. Come, cioè, è stata una roba cruenta al 100%. È stata una delle cose. Allora, le battaglie una volta erano cruente in confronto. La guerra è sempre cruenta. Ma una volta il sangue, la lama, il coso, erano molto più. Il coraggio, non riesco a spiegarlo bene, era qualcosa che prendeva molto di più l'anima di quello che succede adesso. Era molto più brutto, toglieva ogni cosa la guerra una volta, perché non c'era nulla, non c'era nessuna regola, non c'è neanche adesso nessuna regola, ma una volta si passava sopra tutto, non esisteva nulla. E questo il protagonista di questa canzone non regge al confronto con queste cose, diserta. Diserta da tutto, dall'amore, non diserta soltanto dalla guerra, diserta da tutto, dalla vita, dall'amore, tutto quello che c'è. E poi c'erano delle armi terribili. Alla baionetta. Cioè, proprio si parla anche nella prima guerra mondiale, è successa una cosa simile. Sì. Poi la guerra dei trincee, la guerra dei trincee facevano bene per mandare l'assalto, è una cosa era incredibile, proprio una carneficina. E tu hai visto l'ossario ti ha dato. Sì, è dato l'idea della carneficina. Una volta la guerra era una carneficina, mandavano il popolo a morire. Esatto, era proprio una carneficina, assolutamente. I borghesi e i ricchi fanno le guerre e le rivoluzioni, è il popolo che ci mette il sangue. È vero, è proprio così. Quindi la chiave di volta di questo pezzo può essere anche questa frase che hai detto adesso. Sì. Lui rifiuta. Non parliamo di pacifismo, è solo una visione. Non c'è pacifismo. No. Perché quando tu stai dalla parte del popolo che viene vesseggiato con le guerre, non sei mica tanto pacifista. No, assolutamente no, assolutamente. Non ti viene da essere pacifista. E dunque questo qua. Alle luci dell'alba il cannone rombava da dietro la collina. Da sopra il masso il capitano guardava lo sciogliersi della brina. Io rimasi seduto in disparte e guardavo i compagni lustrare. I miei amici sono morti, o forse sono io che non riesco a passare più il fiume. Rimasi da solo nel buio del bosco, a battaglia finita da ore. Ossa su ossa e sangue su sangue e quel fastidioso odore. Così corsi più veloce del vento e nel vento mi senti chiamare. La bandiera è perduta, la marcia è finita, torna a casa oh mio bel disertore. Secca è la vite, la sua casa è in rovina, un vestito esteso tra i rami. Il cielo è vivo di stelle cadenti, lampi argento accendono il mare. La sua bocca fu così stolta nel versare amore e rancore. Il capitano è caduto, la battaglia è finita, torna a casa mio splendido amore. Non mi dà pena nulla se non il tempo che so più tornerà. I balli mancati, le frasi perdute, l'assoluta oscurità. Il maestro lusingò i tuoi occhi per rubarti una notte d'amore. Ogni rovo ora in fiamme, la tua anima anche, ti nascondi alla luce del sole. la nave in partenza, le vele sono gonfie, i muscoli sono in tensione. Resti in vedetta mentre il porto scompare con il nome scritto sul cuore. Questa notte ci sarà un mare grosso e prima che si possa svegliare prenderò ogni cosa gettandola in acqua cantando quella vecchia canzone. Mille anni da casa, lontano e perduto, senza un posto dove andare. Solferino è presa, ma io ero distratto, le mie mani sono prive di rughe. Una luna di marmo la splende, si riflette sulle acque del fiume. Ai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, Blu Radio Veneto Rock, e se volete mandarci qualche post, noi lo leggeremo più che volentieri in diretta. Maurizio, questa canzone di Valerio, ecco, la differenza tra le due canzoni. La precedente mi sembrava una poesia, per quello parlavo prima di poesia. Questa l'ha interpretata proprio invece come un racconto. È una cinematografia, è un film questa cosa. Grazie. Secondo noi, cosa dici? Proprio un film, un momento cinematografico. Grazie. Poi è una frase molto dura alla fine. Me la puoi ripetere la frase ultima? Dai ricchi mercanti non mi fare trovare, allontana da me questa fine. Dai ricchi mercanti. Dai signori della guerra. Dai signori della guerra. Questo, quindi qualcosa di pacifista c'è. Cioè. Sì. Pizzichettino. Un pizzico. Mi caso un pezzo molto bello. Perché è un pezzo angoscioso anche. Sì. Angosciante. Tu hai visto l'ossario. Cioè, hai capito, hai... Sì, come si può arrivare? A che punto si può arrivare? C'è anche un'invocazione a Dio quando dice: sì, secca è la vita e la sua casa in rovina, un vestito esteso tra i rami. La vita è l'immagine divina. E lui richiama: non c'è più neanche Dio nella guerra. Esattamente, hanno scortato anche Dio. C'è spesso il discorso dell'acqua in questo disco. E la battaglia si è fatta in un fiume Chiese. Quindi, sì, oltre alla battaglia cruenta, anche l'annegamento nel, sì, fiume. E mi ricordava una famosa battaglia fatta negli Stati Uniti nella guerra di secessione americana. Ti ricordi? No. È stata una battaglia del 1864-65, tra nordisti e sudisti. È stata una battaglia cruentissima. È stata fatta vicino a un fiume e tanti sono morti annegati. E mi viene in questo paragone a proposito di America, a proposito di Dila, a proposito di ballate. Infatti, sei un obo in questa sera, puoi essere anche un obo, un cantastoria nel senso positivo del termine. Sì, sì, sì, Roma cantastoria. Va bene, lasciamo perdere la romanità, parliamo di te. Sì, la parte del fiume, infatti la richiamo all'inizio, che i nemici sono morti, o forse sono io che non riesco a passare il fiume. Non ho il loro coraggio. Chiese praticamente, sì, era, sì, il fiume che dava proprio lo spartiacque della, sì, battaglia, sì, sì, fra i francesi e gli italiani e gli austriaci. La cosa strana è che prima ho scritto il pezzo e poi sono andato a vedere la storia del i riferimenti che sono venuti sono strani, perché poi uno chiama i fantasmi, queste cose così, come diceva Dylan, certo, le canzoni stanno nell'aria, sei solo te che devi prendere la storia e scriverla, non sei te che la scrive, ma è qualcuno che te la viene a dire. Io non sono credente, però su ste cose mi fa strano, perché la cosa del fiume, dei riferimenti scenici... È un film, sì. È un film, cioè potrebbe essere benissimo un racconto cinematografico. Prima, dopo citeremo Luigi Magni. Luigi Magni ha sempre stato un personaggio che ha dato la colorazione ai fatti ottocenteschi. L'Ottocento, il Risorgimento, era uno dei cardini della cinematografia di Luigi Magni. Sì. Quindi il Papa Re, Nell'anno del Signore, tutte sì. cose molto vicine. Il popolo sovrano. Quindi è una cosa molto interessante. Quindi il Risorgimento, hai sì. tirato fuori il Risorgimento, vedi caso. Insomma. Sì, farò anche qualcosa sulla Prima Guerra Mondiale. È una cosa interessante anche quella. A proposito, c'è il centenario il prossimo sì, anno, sì. quindi anche quello può essere un sì. argomento. Ne hai già fatto uno sull'Italia. Lo porterai a sentire qua sicuramente. Facciamo una cosa tipo quella che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto con l'Italia, con sì. 150 anni sì. della bandiera, e possiamo farla, come no? Io che non sopporto le celebrazioni, che cosa vengo con le celebrazioni? Vabbè. Senti Valerio, voglio chiederti una cosa. Io ad esempio mi metto di fronte a un foglio bianco, non mi viene di scrivere nulla, non sono un creativo. Invece un artista cosa lo spinge a creare una canzone? Dipende dai momenti. Questi pezzi qua sono stati scritti per angoscia, si dice così. Sì, si dice così. Perché vedevo delle storie, ne captavo il dolore, volevo dire la mia su queste storie, volevo dare una voce a chi forse era andata perduta. Infatti ho preso degli argomenti. Pasolini è molto presente nella nostra, però gli altri, la battaglia di Solferino, le acque alte. Poi parleremo delle acque alte, quindi sì. del Vajon, tutti quei discorsi collegati. Non avevano voce, perciò ho cercato di dar voce a chi era stato dimenticato. Il pugile di Oscuro il tuo disegno, sì. Dei combattimenti clandestini. Mm. Ho cercato un po' o il personaggio della barca del Pequod, sì, di Moby Dick. Però anche con le storie delle barche... Ultimamente conosciamo sì, esattamente, conosciamo molto bene purtroppo sì. E perciò ho cercato di dar voce a chi non c'era più, anche agli amanti sconsiderati. Adesso arriviamo agli amanti sconsiderati. Dobbiamo sottolineare una cosa, cari ascoltatori. Stasera Valerio lo presenta tutto dal vivo il disco. È una cosa esatto. che non è semplice, Valerio. No. Ma tu sei. L'hai già fatto? Hai già fatto questo esperimento quando sei venuto qua da noi? Tutto live. L'hai fatto te, d'accordo, ma di solito si presenta con il disco, hai capito? Però tu un certo tono, tu presenti tutto dal vivo, una cosa molto positiva, molto interessante. Adesso arriviamo alla traccia numero 3, e qua arriviamo a un traditional scozzese o anglosassone, possiamo dire così. Nel 1720. Esatto, nel 1720. Questa storia, queste famose murder ballad, le famose storie degli amanti traditi, degli amanti e poi del bandito, eccetera. Una cosa molto anglosassone, perché sono trapiantate nella Roma 2013, targate Valerio Billeri. Un omaggio a Dylan, visto che anche Dylan ha ripreso questo pezzo. Sì, ha ripreso questo pezzo e poi sull'ultimo disco ha fatto un brano, Teen Angel si sì. chiama, che è più o meno la stessa storia, con delle nuove nuove frasi, nuove aperture. Una musica, esattamente. Però è la stessa storia. Come mai? Dimmi. E perciò questo pezzo l'ho sempre avuto a cuore, anche perché lo suono a uno dei miei figli, a Gigi, glielo suono sempre, e ho voluto mettere una canzone che ricordasse lui. Ma come mai gli anglosassoni, tante ballate, tante storie anglosassoni, pescono su questo continuo rapporto tra moglie, marito e amante, o il bandito in questo caso, il bandito. Ma sempre gli anglosassoni, spesso e volentieri queste ballate un po' oscure, un po' maledette. Ma a parte il paesaggio che... Meraviglioso, sì. Nelle Ande scozzesi è una cosa meravigliosa. I fantasmi stessi. E dà proprio quel senso dell'oscuro, del mistero, sì. del trasgressivo. Ma molti brani, tipo c'era House Carpenter di un altro traditional, in verità molte volte l'amante oscuro è il diavolo, il peccato. Il peccato, ecco, questo è il protagonista di questo pezzo, è il peccato. È il peccato, ma molte volte venivano richiamate come contraltare alla forma religiosa abbastanza oppressiva che c'era in quel periodo. Nel 1700, sì. E perciò questi brani erano una forma una di sfogo. Liberazione, praticamente. E ce ne sono parecchi, c'è questa, c'è House Carpenter, c'è Ragged Tagle Gypsy, sì, che... ma gente come anche i Farpol Convention, tutto sì, il sì. folk inglese ha ripreso questi pezzi, sì. Farpol, Silas Spain e tutto John Barlico Mastai, quindi sì. Traffic ed altre cose, sì, sì. È una cosa bellissima, sono bellissimi pezzi. Comunque la sonorità di questi pezzi è molto simile

Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Vi ricordo, carissimi ascoltatori, che siete sintonizzati su Blu Radio Veneto. Con voi Maurizio Calzavara a condurre questo programma, Gilles Facchinelli alla regia, ogni tanto anche lui con qualche sua domanda. Ma e Alberto Prisco, Alberto Prisco, che è venuto a darci una mano. Alberto, ma soprattutto con noi da Roma Valerio Billeri per presentare il suo CD Acque Alte. Una balla da Maurizio. Sì, anche una giga, veramente. Possiamo dire, cosa dici? Sì, sì. Possiamo ballare stasera. Sì, c'è una versione che ha rifatto anche Branduardi, che è strano che torna a Branduardi. Sì, che dopo non fa tornerà parte più del mio bagaglio musicale, però in questo disco c'è. Sì, è citato. Che era il brano adesso, allora, Vanità di Vanità, in verità, è Raglet Raglet Gypsy, che è questa ballata, il testo della stessa, dello stesso brano. Perfetto, perfetto. Nella versione inglese. Ma lui ha ripreso parecchi pezzi della cultura inglese, anglosassone, musicale, ed è tradotta da sua moglie, Luisa Zappa Branduardi, che è una grande traduttrice di testi inglesi. Lui li ha riportati, fatto una versione sua propria, però anche se i pezzi erano originali, tradizionali. C'è una bellissima versione di Waterboys. È vero, hai ragione. Però poi dove fra qualche... Qua? Sì, esattamente. Vengono a Roma. vengo qui pure, quando ne stanno? Il 22 di novembre. Faccio finta che sono Prisco. Sì, vengono sì, presentano il The Fisherman Blues. Ma porca vacca, qua. Dopo 40 anni, mi pare sì. E io vengo qui. Sei sicuro? No, non ho 40 anni, no, quel disco. Del, no, 30 anni. 30 anni. 30 anni, ho sbagliato di poco. Siamo là. Beh, insomma, presentano quel disco là. È dell'87. E ho capito, sono tanti uguali. Beh, in ogni caso presentano quel disco là. E con la formazione quasi originale. Poi Mike Scott è sempre davanti. Viene qua. Mike Scott viene qua. C'è uno che conosciamo noi, che Sergio, un nostro collega praticamente. Sulla sedia mia. Stefano Dainese, che dunque ha preso il biglietto a un metro da Mike Scott. Ha fatto bene. È stato il primo in assoluto. Sulla sedia dove sto io? Se mi... Non so. Come dice Alberto Sordi Americano, ma qui viene Mike Scott. Esatto, magari. In ogni caso, sì, fra io non mi muovo allora. Chiaramente, ma ti chiamiamo, ti riserviamo il posto. Sì, ma sì. Sei un grande fan di Waterboys. Sì, sì. Grande gruppo. Grande gruppo. Poco conosciuto in Italia, grandissimo gruppo. Ma noi lo conosciamo, noi del gruppo lo conosciamo, è importante questo. Poco conosciuto, in modo di dire. Sempre modo di dire, chiaramente. Grandissimo gruppo. Straordinario gruppo. E i Waterboys hanno preso un sacco di pezzi. Loro sono scozzesi, vedi caso. Sì, quindi, sì. Decisamente, quindi hanno ripreso dei traditional fatto da Mike Scott. Parlare di traditional fatto da Mike Scott è una cosa meravigliosa. Bellissimo, stanno una cosa meravigliosa. Ma anche il disco di Valerio è una cosa meravigliosa, è molto bello, molto grazie. Interessante, è molto piacevole, è molto sentito, quello possiamo dire. Non sembra quasi che l'ho scritto io a sentirmi parlare. No, manca una cosa però, l'armonica. È l'armonica, non l'armonica. No, non l'ho portata apposta, perché l'armonica su questo disco non ci stava. Ecco, no, quindi c'è stata, non scelta. Ce l'ho messa per dar più risalto alle parole. Ah, ok. Perché l'armonica è un'altra tua caratteristica, sì. La porti spesso. Sì, non l'ho portata. L'hai portata. Suoni, hai anche altri componenti, cioè suoni da solo o hai suoni con un gruppo? Allora, ho i pezzi di assemblaggio, adesso ho anche un altro gruppo, le ombre elettriche, sempre come, più allegri. Le ombre elettriche, già da una certa impostazione alle cose. E in più sto preparando un altro disco con Antonio Zirilli, Blast Waves. Che sono un gruppo di Roma molto bravi e di ballate popolari siciliane e romane. Lui viene da Messina, io da Roma. Quindi fate un'ottima coesione, sì. Di intenti. Ancora abbiamo deciso il titolo. Però le idee ci sono. Sì, no, registriamo venerdì. Ah, è stato quindi un giorno della partita. Sì. Infatti questo che ho detto. No, non glielo devi ricordare. Sì, è una cosa brutta questa cosa. Giorno della partita. Perché dovete ascoltare, sapere, cari ascoltatori, che Valerio dovrà registrare per motivi diversi il disco venerdì. Ma lui si porta un piccolo televisore, un qualcosa di quel genere, mentre registra il disco, sente la partita. Ma come fa a registrare un disco sentendo la partita? Lo so io. Ragazzi, a Roma è la fede. A Roma è a Roma. Vabbè, È tutto vero, è tutto comunque vero. Pure il gruppo, non so se sono romani tutti quanti. Tutti romanisti. Tutti romanisti, no, romanisti, che non sbagliamo, assolutamente. Quindi è tutto vero, non è una leggenda metropolitana. No, è tutto vero, assolutamente vero. Come è tutto vero sto disco, Acque Alte. L'idea di questo disco, come è nata? Ne hai fatti tanti dischi, però l'idea, come hai deciso? Non nel gruppo, solo da solista. Perché questo temporalmente, in questo tempo qua, ci doveva essere un momento da solista da parte del Vialelli. Perché il gruppo, essendo bravi musicisti, molto più bravi di me, le parole non venivano messe in risalto. Serve cioè, magari... più la musica veniva messa in risalto, sì, più gli strumenti, pratica. Una strumentazione elettrica minore, è meglio. Suonata in maniera minore, con meno virtuosismi. Metti in evidenza le parole. Le parole. Certamente. Quindi l'idea è questa, sì, da portare avanti. Anche perché mi rifacevo ai bluesmen, ai folk singer, alle chitarre scordate, ai dischi che gracchiavano di una volta e non erano molto... Non volevo che chi no, diceva non c'era, c'era tanto. Accorda la chitarra, accorda la chitarra. Antonio... E mettiamo un pezzo dopo di... Certo, lo mettiamo su. Di Antonio. Alberto l'ha preso, Antonio Zirilli, sì. E dopo lo mettiamo su, un pezzo. Sì. È un grande. È un grande, Quindi, sì, dicevi che l'impostazione era questa... Poche cose, come diceva il buon boss all'epoca quando fece quel mirabile disco che abbiamo citato, parole, cioè chitarra e voce, basta, sì, è sufficiente. E con qualcosa, c'è un Hammond però che gira nel disco. Sì, qua, stasera chiaramente l'Hammond non c'è, c'è la chitarra di Valerio. Un Hammond, una gran cassa e ogni tanto una chitarra elettrica. Una... Contrabbasso, ma si sentono pochissimo. Però, si sentono poco, però sono incisivi in certi momenti. Sono indispensabili più incisivi. Per non far addormentare la gente. Ah sì, mi dicono, devi suonare un altro pezzo. Adesso mi pare che ci sia La Tempesta adesso. Mi sì. Ok. Dai una stavolta l'abbiamo descritta così. Adesso dai una descrizione te della tempesta vera e propria. William Shakespeare. No, William Shakespeare no. Oh, il vento che io. Qua c'è un piano, un Hammond di contorno, un piano sopra. Gianni Ferretti. Grande musicista. Perché è sempre La Tempesta, quindi sempre il mare, sempre le acque. Perché le acque è fonte di vita, ma anche fonte di morte. Ma questo pezzo si apre con La mia macchina è ferma nel fiume morto. Perché la presenza di Dio in questo disco è citata quando non c'è l'acqua, come la canzone del deserto. Certo. Perché una volta Dio, anche nelle vecchie immagini, noi siamo abituati a vedere gli angeli. Devo suonare, ma adesso questa la devo spiegare. Gli angeli celesti e i demoni rossi. No, una volta Dio si manifestava col rovo che bruciava. Gli angeli erano rossi nella vecchia iconografia, e i demoni erano celesti e l'acqua e il freddo. Poi con il tempo è cambiata questa cosa, perciò la manifestazione di Dio, anche se io sono ateo, però il disco religioso, certo, sto in un radio cioè. Giustamente sì, è una manifestazione, cioè una la manifestazione un di Dio filone è religioso dal calore, pezzo. Dal calore e dal fuoco in questo disco. Perfetto. Ok, poi io sono ateo, però non si sa mai, come diceva. No, c'è sempre l'apertura, ci può sempre... Puoi ritornare indietro su questo discorso. Il punto di morte sicuramente. No, anche prima. Anche da un buon romano. Anche prima. Ho sempre creduto. Anche prima, c'è molta possibilità. Anche prima. Ok. Sole e lamiere, scintilla gli occhi, la mia macchina è ferma nel fiume morto, che bella la sposa davanti alla chiesa, tra sguardi indecenti e fiori rosa, il santo dall'alto annusa l'aria, la tempesta che svelta dal mare arriva e tu sposo resti nascosto tra le pieghe del vento. Stanotte sarà tua, stringendo i tuoi nodi, scioglierà la sua treccia, scaccerà i tuoi dubbi, sanerà le ferite, con le gambe bagnate, mentre il mondo avrà ancora sogni agitati, guarderai fuori il cielo, cadendo sfinito, restando in ascolto di un treno che passa lontano. il bandito relegge. Sua soluzione a chi stanotte sfiderà. Il gran campione avrà come premio delle ossa nuove e un sorso di vino per dimenticare un amore conteso e svanito alla svelta, mentre il santo rimane nascosto tra le pieghe del vento. Mentre il santo rimane nascosto tra le pieghe del vento. Mentre il santo rimane nascosto. Blu Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Io non so se sei d'accordo, Maurizio. Questa voce di Valerio, un po' roca, penetrante, esalta bene e anche dà valore più incisivo a questi testi. Sì, indubbiamente. Questo è un testo. Lui è dilaniano e Dylan spesso e volentieri ha calcato nel discorso biblico, spesso e volentieri ha scritto testi biblici, quindi non so se tu ti sia ispirato. Sicuramente a Dylan serpeggia questa sera, sì. Serpeggia, senso positivo del termine, serpeggia, perché Dylan è un ispiratore perfetto. Sì, i testi. Escludendo il solito primo pezzo del boss, ma anche il boss è stato ispirato, sì. Dylan ha ispirato anche il boss. Tra virgolette, ha ispirato tutti. Chiaramente. Quindi è un disco molto dilaniano, nel senso positivo del termine. In Italia c'è un dilaniano convinto, che è Francesco De Gregori. Questo sembra un pezzo di De Gregori. Esattamente, che è Francesco De Gregori. De Gregori è stato. L'ho preso alla larga. De Gregori è sempre stato quello modello di Dylan italiano. Grandissimo. È sempre stato coerente su questo punto. Sì, non ha mai rinnegato. Mentre c'è qualcuno, no, nel senso rinnegato, si è un po' buttato verso colorazioni un po' più commerciali, la cosiddetta scuola romana. C'era De Gregori, c'era Venditti, che Venditti poi si è un po' allontanato, sì, da questi stilemi musicali. Chiaramente ognuno fa una propria scelta. Mi tocca sta buono, perché sennò... è romanista, quindi deve stare buono. No, mi tocca sta buono di niente. Ah, esattamente. No, anche se è un po' allontanato, mentre De Gregori è sempre rimasto coerente. Grandissimo. Anzi, ultimamente quando sono dal vivo è ancora più forte di quando era giovane. Esattamente, suona dal vivo come fa Dylan, praticamente cambia totalmente i pezzi. La gente è andata là per sentire Blowing the Wind, non riconosce più Blowing the Wind, come non riconosce più Rimmel. Che grande. Meno male. Sei d'accordo nel cambiare totalmente un pezzo come Rimmel? Perché le canzoni vivono di vita propria, non stanno mai ferme. Quando uno cresce, cresce pure la canzone, cambia con la persona che l'ha scritta. Se rimanesse sempre uguale, sarebbe una canzone morta. Non posso cantare un pezzo come lo cantavo 50 anni fa, non sono la stessa persona. Non ha la stessa tonalità, anche forse. La stessa tonalità, la stessa persona. Mm. Non sarebbe vero, non è la stessa persona. Però vedi, tu hai un discorso giusto, il musicista è perfetto, il musicista deve sempre andare avanti. Però per il pubblico che viene a sentire un concerto, certi temi, certi punti di riferimento li vuole ancora sentire. Se sentissero il disco. Perfetto. Ok. Va bene. Non c'è niente da fare, cari ascoltatori. No, io sto cercando, stiamo cercando di ragionare con Valerio. Sì, sì, il ragionamento è perfetto. Perfetto, io non c'è niente da dire, è perfetto il tuo ragionamento. È come le varie rappresentazioni dei drammi di Shakespeare. Se tutti facessero sempre lo stesso dramma, Amleto è quello, fanno tutti uguale. Esattamente. Hai ragione, però sai, l'ascoltatore, cioè quello che viene a sentire un concerto, ama, tra virgolette, avere qualche piccolo riferimento, quello sì, piccolo, non sì. Tanto, piccolo. Dylan non li dà, quello è bello, non dà assolutamente niente. Adesso uscirà anche la storia, forse non è lui, non so se... Ah, non è lui anche. Allora, lui ogni tanto mette in giro che non è lui, adesso che aveva venduto l'anima al diavolo all'incrocio e adesso se lo deve riprendere, ogni tanto ne inventa una. Ne inventa una per colore, sono... È grandissimo. No, Dylan è grandissimo, Dylan può fare quello che vuole, sì, quando sì. È sul palco può fare. Beh, tu lo sai meglio di me che quando è sul palco i musicisti che suonano con lui non sanno mai assolutamente quello che suona, quello che vuole far sentire. Assolutamente non lo sanno. È un grosso problema. La scaletta non esiste per lui. La cambio. Quindi sono talmente bravi che sanno tutti i pezzi che lui può sconvolgere. In incredibile, una band incredibile, sì. Quindi da vedere assolutamente, anche per quello. E lui è un bravo, lui se ci si mette quando gli va, è un bravo musicista. Sì, se si mette, sì, bravo, dire, perché scrive dei pezzi con degli accordi che mica semplici, vero? No, assolutamente so, sì, no. Sembrano, perché lui gli suona un po'. Tutto sembra semplice, ma non è proprio così. Neanche le parole. Le parole assolutamente no, però anche gli accordi musicali. Tutto sembra semplice, ma non è proprio così. Lui aveva spiegato una volta che aveva raggiunto la perfezione adesso con un metodo di accordi 4-3 che non significava niente. Assolutamente. E i giornalisti gli erano andati dietro. Io ho provato a fare quello che ha detto. Non ci ho capito niente. Dopo un minuto ho smesso. Una cosa che faceva, non a livello di Dylan, chiaramente, c'era Nick Drake che faceva degli accordi molto difficili, molto complessi. Tutti i chitarristi che hanno tentato di andare avanti, di proporre i pezzi di Nick Drake, sono sempre trovati con molta difficoltà. Perché usava delle cordature un po' strane, un po' particolari. Tu che sei un chitarrista, poi sicuramente esattamente, molto difficile da fare. Adesso arriviamo alla title track, si dice così? Sì. Il pezzo che dà titolo al disco. Sì. È un pezzo molto importante, Acque Alti. Innanzitutto è molto bello. Io ad Alberto ieri sera, Alberto Pisco, che è qui adesso è in giro per la radio, abbiamo ascoltato attentamente in macchina il disco di Valerio e ci siamo fermati su questo e un altro pezzo e poi parleremo. Ma Acque Alte è la title track. Perché Acque Alte? Acque Alte, abbiamo parlato del Vaillant, adesso ci sono i 50 anni del Vaillant, quella grande tragedia. Ma Acque Alte perché, Valerio? Allora, innanzitutto, come spiegavo prima, l'acqua è fonte di vita e fonte di morte. Fonte di vita, assolutamente. In Italia è stata molto spesso fonte di morte. L'alluvione di Messina, l'alluvione di Genova, la Costa Concordia, con Schettino e altre cosette. Il Vaillant. Il Vaillant, soprattutto il Vaillant nel 63, quindi 50 anni fa. Tantissime volte l'acqua. Non dimentichiamo, anche perché non ne parla nessuno, anche la tragedia di Stava, mi sembra forse. Anche quello c'è stato, sì. Sempre l'acqua. L'acqua porta via tutto. L'acqua. In Italia porta via tutto. Stranamente. Dovrebbe essere fonte di vita. La fonte primordiale di vita in Italia invece è fonte di morte. E quando c'è stata l'alluvione di Genova, io adesso non abito più a Roma, purtroppo per motivi finanziari. Roma, gli affitti costano moltissimo. Abito vicino Roma al mare. Sei spostato? Mi sono spostato dagli Etruschi, dico io. A Cerveteri. E sono andato al mare, che è lì vicino. Era molto scuro quel giorno. Sono salito sul pontile e ho guardato la profondità dell'acqua, che era molto nera, scura, mossa. E ho cercato di capire quale fosse la fonte di tanto dolore che viene dall'acqua. E come mai, come diceva Melville in Moby Dick, il grande sudario è stato messo su di noi. Ho cercato, sembra strano, ho cercato di vedere dei volti, delle cose, preso dalla crisi mistica che ogni tanto mi prendono. E l'unica cosa che mi è venuta in mente è questa canzone che dedico alle persone del Vaillant e di tutti quanti. Le cose che sono successe qui. Le tragedie che sono successe, perché l'acqua, le tragedie nascono, dicono, si dice, anche perché noi uomini cerchiamo di... In Italia sono tutte perché noi uomini. Siamo noi gli uomini che distruggiamo la natura e l'acqua a Sarno chiaramente... con la disboscazione. Esattamente, con quello. Con quello che è uscito fuori adesso, che noi sappiamo... È quello che è uscito adesso. Una cosa assolutamente abominevole, però noi uomini siamo noi che distruggiamo, l'acqua va a scorrere perché noi uomini distruggiamo. Noi cerchiamo di incarnare la natura, di dargli una forma a noi consona, la natura si ribella. Esattamente. Dopo io volevo fare una piccola parentesi, la faremo dopo, sempre riguardo al Vaillant, sempre legato alla musica. Quindi adesso sentiamo Acque Alte e poi parliamo ancora di questo sistema. Non proprio un bel sistema. Dedicato alle vittime del Vaillant. Certo. Acque alte ovunque, acque alte signore. Dalla collina di latta ho sentito rombare, il cielo è color piombo, le campane a suonare, acque alte ovunque signore. Sono corso in città, il fango è nelle scarpe, Gesù Cristo galleggia, le piante sono morte, il mio amore è partito, il sale sulle scale, acque alte ovunque signore. Da una casa abbandonata ho sentito cantare, qualcuno sa il tuo nome, una vecchia canzone, C'è uno sposo che aspetta, un viso appare e scompare. Acque alte ovunque, signore. Casa era buia, così ho preso la strada e ho aspettato nel freddo che scendesse la sera. C'è un ammasso di ferro, un fuoco per scaldare. Acque alte ovunque, signore. Da una casa abbandonata ho sentito cantare, qualcuno sa il tuo nome, una vecchia canzone. C'è uno sposo che aspetta, un volto appare e scompare. Acque alte ovunque, signore. Da una casa abbandonata ho sentito cantare, qualcuno sa il tuo nome, una vecchia canzone. C'è uno sposo che aspetta, un volto appare e scompare. Acque alte ovunque, signore. Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Era una canzone da ascoltare in rigoroso silenzio. Mi sbaglio, inizialmente c'era anche questa specie di lamento. Sì. Sul disco non c'è. C'è Lamond sul disco. Sì. Che bello Lamond. Io e Alberto ieri sera abbiamo sentito verso luna di notte e abbiamo pensato, può essere anche un spiritual questo, sì. Secondo me. Cosa dici? Sì, anche con gli accordi, con il tipo di accordi, assomiglia molto House. Sì, esattamente. E... quindi uno spiritual, quindi molto black, sì, giustamente. Sì. Perché tu sei black fondamentalmente. Sì. A proposito di musica e immagini, questa canzone tua canzone del Vaillant sicuramente dà un'emozione molto forte, Maurizio, no? Io non so se tu conosci il compositore Raymond Vino. No. Beh, ha fatto un video allegato a una sua canzone, a questo video, in occasione del cinquantenario del Vaillant. La canzone si chiama 9 ottobre 63, Suite for Vaillant. Ed è una canzone, ci sono due immagini molto forti, secondo me, che c'è questo ragazzo che a un certo punto nella musica vede che si copre le orecchie, dà la sensazione proprio, ti fa vivere il momento in cui gli cade l'acqua addosso. E soprattutto alla fine di questa persona, un anziano, che entra su questa casa vecchia e trova una sveglia. E anziché, in pratica, è ferma allora che è caduta giù l'acqua. E lui, anziché fermare il tempo, fa ripartire questa sveglia. Bellissimo. È di un impatto veramente molto forte. Se ti capita, ti consiglio sicuramente... ti piacerà per quello che vuoi trasmettere, di vedere, di ascoltare e di vedere soprattutto questo video. Sicuramente, Roberto. Grazie del consiglio. Adesso parliamo dal punto di vista musicale. A me interessava sapere perché hai deciso di mettere Lamond appena appena sussurrato in questo pezzo. E in quel momento hai deciso in che pezzi, perché volutamente hai deciso Lamond o qualche altro strumento, perché Lamond ci stava bene, perché House of the Rising Sun è fatto con bell'organo iniziale, è quello. No, perché sostituisce il lamento. Ecco, Lamond sostituisce il lamento. Ottimo. È abbastanza lamentoso sui brani, così abbastanza spirituale, lamentoso. È la voce dell'anima, esattamente, ciò che non possono dire parole dice Lamond. Bene, Lamond è uno strumento meraviglioso. Sì. Tu sei black, quindi. Sì. Quindi, cari ascoltatori, io prima, mentre Valerio provava House of the Rising Sun, così per provare gli accordi, mi ha riempito l'animo di gioia, positivo. Benissimo, quindi questo era Acque Alte, la title track. Come si potrà fare dal vivo un pezzo simile? Chitarra e voce solamente, o ci saranno gli strumenti, ci sarà qualcuno che ti darà una mano? Allora, no, dal vivo chiaramente no, stasera siamo dal vivo, però in palcoscenico, ragazzi, entrate. Dal vivo questo lo porterà in giro questo, sì, questo disco? Organo, allora questa è una bella domanda, dimmi. Pochi concerti acustici per questo disco, 2-3, basta. Hai troppe robe da fare per quello, sì, troppi dischi, troppe cose, poi non me va più di combattere Questo è un disco che non puoi andare a suonare dentro i locali. Perché? Perché? Perché la gente, se suoni il rock, il blues col gruppo che sta a sentire, se vai a suonare nei locali questo tipo di musica e suonarlo davanti alla gente che ti passa davanti che esercizia, non mi sembra proprio dispettoso. No, ma non ti tirano dietro i pomodori, no. Come a Dila all'epoca. No, a proposito. Però se qualche teatro, qualche cosa la stiamo prendendo, per esempio a suonare al Pantagruel a Casale Monteferrato, che è un buon pubblico. Quindi che in Piemonte? Sì. Che ascolta queste cose. A Roma forse non esiste. No, forse del Zamorante, ma è un circolo, l'ho chiesto, adesso vediamo, è un po' difficile proporre queste cose. E non mi va tanto di combattere con la gente dei locali, sei stanco. Arrivato a 41 anni. Sei stanco, hai combattuto precedentemente, parecchio. Vero? Però qualche battaglia l'hai vinta. Sì, no? Sì, ma adesso che poi ritorno col gruppo rock e gli esturo orecchie. Nel frattempo mi riposo. Giustamente è una tipologia che si capisce immediatamente cosa vuol dire. Benissimo. Anche ai laziali fai così, no? I laziali non possono venire, cioè. Possono venire. Non si intendono le musiche i laziali. Gente che questa è una affermazione molto grave, quello che hai detto, molto grave. Adesso aspettano quando torno a Roma. Ah, sì. Sanno il latino come il latino. Come sta buono. Cari ascoltatori, purtroppo siamo scivolati nell'ambito calcistico. Perché perché Valerio giustamente non può allontanarsi dal cambio l'ambito calcistico. No, non posso fare troppo serio. Parlo scrivo le canzoni per far vedere che questo è un disco abbastanza serio, sì, però io no. Il disco è serio. Senti Valerio, qualche cantautore del presente o del passato romano che tu stimi tantissimo? Stefano Rosso. Anche noi. Come mai purtroppo Stefano se n'è andato un po'. Perché troppo è una persona vera, è un grande cantatore, una persona vera, semplice, figo. De Gregori, romano. E Romani, De Angelis. Sempre scuola del Fox Studio, sì, sì. Poi quelle della nuova generazione, qualcuno della nuova generazione. Che dici? Ah, ok, non ci sono. No, sono amico, no, allora ci Niccolò Fabio. Romani. Beh, Niccolò Fabio è una distinzione. No, Niccolò Fabio è una brava persona, è anche bravo. Anche Silvestri, Cristicchi, non posso scherzare. Però loro già, Cristicchi abitava nel mio stesso quartiere, è un bravissimo cantatore. Io l'ho visto che ha fatto un tributo a Sergio Endrigo recentemente in Friuli, molto bello. Molto bravo. E poi ce ne stanno parecchi, no? Noi abbiamo avuto come ospite Simone Avincola, ospite telefonico, non so se tu lo conosci. Ha dedicato appunto un CD, in pratica, anzi un docufilm su Stefano Rosso. Cosa aveva di particolare Stefano Rosso che tu ammiri così tanto? A parte che era trasteverino. Questo è un dato di fatto, no, non da poco. Via della scala. E poi quando a primo impatto, quando vedi una persona, lo capisci subito. A parte che fece un disco bellissimo registrato dentro la stazione. Andatevelo a cercare, la stazione di Roma, live a Train Station. Delle canzoni folk blues americane, bellissimo. Beh, lui era un esperto di questo. Sì. Esatto. È un grandissimo chitarrista. Si trova su internet, è difficile, dovevi andare a cercare tra i siti. Era un grandissimo, faceva come gli pareva, in verità. E poi adesso sai quello che fa, divento comunista e al mare che ha penuto me ne vado. Sì, diceva così. Sì, sì, no, abbiamo fatto uno speciale grazie ad Alberto qui presente che ha contattato. È stato molto positivo. Sì, hanno fatto pure un documentario famoso. Sì, sì, fatto bene. Io sto un po' fuori da. No, mi fate le domande su i cantatori e cose, ma io sono un po' un. Cosa sei? Una mosca bianca? Tipo dire, non sono da parte mia. Sei da parte. Beh, insomma, una domanda su Stefano Rosso va bene. Tu sì, sì, sì, no, tu, su quelli nuovi. Quelli nuovi. Sì. Ovvio che la mia domanda, come ti avevo già chiesto anche prima, precedentemente, è sempre, non è una domanda fatta chi è meglio, chi è peggio, soltanto un parere. Sì, ma non è bravo, mio, non come è vedi io, sono abbastanza, sono altri che si arrabbiano. Cioè, tu dici che la nuova scuola non esiste dei cantatori. Va a graffiare Maurizio. Voglio sapere. Non graffiare, lupa. No, non graffiare. Non graffiare, lupa. No, ci stanno, sono pure bravi. Però non hanno l'impatto che hanno. No. Non li sento io, loro sono bravi. Non li senti. Okay, ma non è perché io sono peggio di loro. Ma non sono bravissimi, però non fanno il tipo di musica che piace a me. Io ascolto un altro tipo di musica, perciò non sono molto esperto da. Ho capito, Tu hai citato prima un gruppo, gli hardcore, mi pare. Sono molto bravi. E quelli sono molto bravi. Ma ci stanno gente, Cesare Caruggi che è venuto qui, sì, però non bravissimo. Sono romani, ho detto i romani. Sì, bravissimo. Io ho bravissimo. Detto. No, romani sono. Bravi cantautori ce ne sono parecchi. Cesare Caruggi, Massimiliano La Rocca. Esattamente, bravissimo. Che ha collaborato anche tu. Sì, hai, sì. Esattamente. Ce ne stanno parecchi. Ma ritornando agli hardcore, tu avevi un progetto. Farai un progetto di musica popolare, tra virgolette, no? Sì, con fra siciliana e romana. Sì, sì. Gli hardcore invece spulciano proprio dalla musica popolare romana. Sì, e sì. Quindi hanno quel collegamento. Che è poco conosciuto e molto bene, perché di solito uno della canzone popolare romana conosce quelle solite, le stornellate. Le stornellate, poi, in verità, esattamente. È molto oscura la canzone popolare romana, ci sono dei pezzi veramente tristi, altro che Mar del Ballad. Sì, sì. Mar del Ballad alla romana. Alla romana, perché sono molto oscure, mm-hmm. coltellamenti. Sì. Dimmi. Io ti do i tempi perché abbiamo ancora quattro canzoni da ascoltare. Ah, sì? Sono beh, le abbiamo circa un'oretta. 10, quindi dobbiamo accelerare. Se stiamo nei tempi riusciamo a farle sentire tutte. Adesso No, perché Maurizio, lui lo dico sempre, è un'enciclopedia vivente. Lui non vuole che lo dica, ma è così. E quando parli con Maurizio parleresti ore di musica senza mai interrompere, perché è un piacere parlare con Maurizio quando si parla infatti. Di musica. Adesso sentiamo un pezzo che io ed Alberto abbiamo giudicato il più bello dell'album. È difficile dire il più bello, però ce ne sono tanti di belli. Noi abbiamo scelto Oscuro il tuo disegno, che è bellissimo, ma anche una traccia, anche dal punto di vista musicale, incredibilmente affascinante. Quasi a luna di notte era molto più affascinante ieri sera che abbiamo ascoltato. Non si può dormire un pezzo simile, assolutamente no. Adesso me lo descrivi e poi lo sentiamo. Allora, è la storia di un campione di pugilato nell'Europa dell'Est che viene a lavorare in Caglia e Italia con la G, ho detto. L'Italia. Uh-huh. E fa dei lavori saltuari e combatte la notte nei combattimenti clandestini, che a Roma, per esempio, a Ostia è pieno dei capannoni che fanno i combattimenti clandestini la notte, le persone vengono dall'est. E riceve un'offerta di lavoro da. Ancora oggi? E a Oia, dappertutto. E io quando una volta facevo un lavoro e c'era un ragazzo che faceva i combattimenti, era segnato in viso. La mattina veniva segnato in viso, ho detto, ma che dove sei stato? Dice, a fare il combattimento. Dove? Dice, la sera. Insomma, facevano queste cose. Perché poi combattono anche con varie. Si mettono i vetri sulle mani, cioè fanno delle cose, manco se fosse. Come era il tempo dei gladiatori. Sì, esattamente, come il tempo dei gladiatori. Purtroppo, tempi stupidi. E poi riceve un'offerta di lavoro sporco da un'altra persona. E trova la morte. Lui non capisce e chiede a Dio, perché lui ha sempre cercato di essere una brava persona, dice, lontano da me il tuo regno, perché io non sono degno di stare, però mi oscuro il tuo disegno, perché una persona come me, che in fin dei conti non è cattiva, non è stata mai, venga allontanata così da te. Io ti chiamo e ti cerco, ti chiamo a me. Ok, benissimo. Oscuro il tuo disegno, è il tuo disegno. Oh. Presi la borsa e i guantoni, salutai e uscì fuori nel freddo. Le ombre della sera calavano e ogni cosa mutava in silenzio. Attraversai il vecchio sentiero che costeggia la ferrovia e saltai sul primo treno con la voglia di andare via, e lontano da me è il tuo regno e oscuro è il tuo disegno. Arrivai che era di maggio, lavoravo nei campi a ore, la sera prendevo un passaggio e combattevo in un capannone. arrivavano dalla città in macchine lucenti e nere, un quadrato nel freddo cemento, pagavano per vederci cadere, e lontano da me è il tuo regno, e oscuro, Signore, è il tuo disegno. Così un tizio che veniva dal nord un giorno mi propose un affare. Mi hanno detto che hai del coraggio, se è vero che eri un campione. C'è un muro da scavalcare, c'è qualcosa da portare via. Non voltarti mai indietro e scordati chi io sia. Quella notte una luna piena risplendeva come una perla, i suoi raggi filtravano il bosco mentre caricavo la roba, e mentre pensavo al ritorno sentì i miei colpi fischiare, i miei occhi rovesciati all'indietro. Guardai il cielo e mi lasciai andare, e lontano da me è il tuo regno, è oscuro il tuo disegno. Il campione era al centro del ring e studiava ogni mia mossa. Portai il destro con tutta la forza, il suo corpo rimbalzò sulle corde. Ora dormo sul fondo del fiume e nel vento sento i corvi cantare. Nella notte un pesce d'argento trova casa dove c'era il mio cuore, e lontano da me è il tuo regno, è oscuro il tuo disegno, è lontano da me il tuo regno, è oscuro il tuo disegno. Blu Radio Veneto. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. 23:16 a Blu Radio Veneto con voi, ma soprattutto con noi, con voi da Roma, Valerio Billeri, per presentare il suo CD Acque Alte. Maurizio. Allora, ieri sera Alberto giustamente faceva questa osservazione positiva su questo pezzo, meraviglioso e molto buboliano, molto alla Massimo Bubola. Sì, altro maestro. Altro maestro, cosa dici? Grandissimo cantatore. Ha questa caratteristica delle ballate molto lente, molto, che entrano immediatamente. Questa è una ballata che entra immediatamente, che fa pensare, e sei molto buboliano, nel senso positivo. Grazie, eh. No, magari. Magari. Giustamente. Massimo Bubola, grandissimo. Grandissimo, ha sempre fatto cose molto particolari. È springstiano lui, sì, francamente. Sì. Più che Dylan Young, molto springstiano. Sì. Però quando fa le ballate lente, molto introspettive, allora ricorda certe cose di Dylan, assolutamente. Grandissimo, grandissimo. Dei pezzi... Io adoro il blues di Re Teodorico, non so chi lo conosce. Blues? Di Re Teodorico, di Massimo Bubola. Ah, sì, Marabelle. Certo. Barbezzi, tanti dischi interessanti lui, anche da dischi da frontiere tra Messico e Stati Uniti. Poi anche il disco che fece per la Prima Guerra Mondiale, cioè molto quello bello. È molto bello, molto, molto bello. È stata una ricerca non da poco. Sì. E quindi non è che sia una tua fonte di ispirazione, ma va nell'aria, come si dice. No, è stata anche una fonte di ispirazione. È una fonte di ispirazione. Beh, Alberto per ha pigiato giusto l'acceleratore giusto. Quando scrivo rock, Bubola molto presente. Bene, beh, rocchettaro Bubola, assolutamente. Lui, giustamente, dobbiamo ricordare che il famoso Indiano dei Rimini l'ha scritta lui con De André. Questo dobbiamo ricordarlo. Sì. Veneto è una San Creek. Esattamente, l'ha scritta lui con De André, quindi insomma non è mica semplice un ragazzo sconosciuto essere chiamato da De André per fare due dischi. L'ha fatto anche De Gregori con volume ottavo, però ne ha fatto uno solo, mentre Bubola ne ha fatti due. Motivo, una cosa, a me piace più Bubola e De Gregori, però non me... dimmi io preferisco Bubola e De Gregori. Beh, volume ottavo l'ha scritto con De André, De Gregori, lo sai bene, no? Sì. Chiaramente. Oceano. Benissimo, dimmi. No, dico Oceano. Sono cose meravigliose anche su volume ottavo. Adesso presentiamo un album di un tuo amico. Sì. È un album non recentissimo, ma è giusto di rinnovare il discorso. Sì, di Antonio. Parliamo un momento di Antonio, dai. Antonio è un bravissimo musicista, dal vivo è trascinante. A parte, non so se è Zirilli. Perciò... Zirilli, sì. Questo è già il nome, è una garanzia. Perché parentele antiche, insomma, andiamo a vedere. Ma poi ve lo spiegherà lui quando verrà, perché ha detto di salutarvi e che verrà. Bene. E poi dal vivo ha un gruppo meraviglioso che suonano in maniera, infatti ho deciso di collaborare con loro in questa maniera. Se non avete... Nel prossimo disco collaborerai con loro? Sì, allora. Sì. Un concerto loro e sono rimasto... Cioè, è una cosa che io non riesco a fare, coinvolgere, essendo molto più dilaniano che springsteeniano, io il pubblico non lo coinvolgo. Invece loro sono molto bravi, io lo adoro quando li sento dal vivo, sono molto trascinanti, esattamente. Un suono diretto, duro, figo, belli, bravi. Bello, bello. Vedi, questo è un gruppo romano bravo. Lui è messinese. Ah, lui è messinese? E metà del gruppo, il fratello suona la batteria, poi c'è Fabrizio Frattali al basso e Damiano Minucci alla chitarra elettrica. Hai scelto la traccia di questo numero uno. Numero uno. Che richiama anche un po' Springsteen. Si richiama molto Springsteen. Certo, dove sei in CD e qui c'è... Leggi un po' te che questo... Ci vedo, non so, chiari. It's so hard to be a saint in the city. Questo è il titolo. Adesso lo sentiamo? Sì. Ok, lo sentiamo, ok. We'll be right back. Radio Veneto. SMS 346 2320 033. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Ok, abbiamo sentito quindi Antonio Zirilli e The Blast Waves. E dopo It's Still So Hard to Be a Saint in the City. Pezzo, se non scioglilingua, non è un scioglilingua. Infatti l'hai fatto leggere a te. un pezzo decisamente rocchettaro, springstiano, come sì, si dice. Sì. Poi il chitarrista è molto bravo, si chiama Damiano Minucci. Fatto un bel assolo, affascinante. Con le ombre elettriche adesso pure. Ah, vedi, l'hai cooptato praticamente. Sì, sì. Fai bene. Giustamente il rock ci deve essere sempre. Sì, sì. Perché dire rock in ogni caso, anche se è un cantautore. Sì, ma poi loro sono È riduttivo dire Dylan cantautore. E Dylan e basta. Loro sono molto bravi, perché sono molto ragazzi alla mano, non so quelli che se la tirano. Di solito adesso vanno i gruppi rock e fanno tutti che se la tirano. Poi viene la mamma a prenderli tutti adesso. Ciao, danno a casa e c'è mamma che mi aspetta. Capita. E sul palco sono trascinanti, dicevi. Coinvolgono praticamente. Sì, sì. Perché set fanno. Loro fanno dei pezzi loro, poi tirano fuori Van Morrison, Springsteen, Young, pezzi rock anni 60. A proposito, tu mi hai detto prima che hai visto recentemente Neil Young. Grandissimo. Cosa ti è sembrato? Sempre grande? Grandissimo. Sembra un elemento della natura. È un elemento della natura? Lui è un elemento fuori della natura, più sì, sì, è grandissimo. C'ha un suono tutto suo. È veramente... forse uno dei più bei concerti che ho mai visto. Oltre a quelli di Springsteen. Che repertorio ha fatto? Ha fatto dei pezzi dell'ultimo disco psichedelico. Quello che ha fatto, quello doppio, con pezzi lunghissimi. Sì, ha suonato Blowing in the Wind Dylan, acustica. Anche quello ha fatto. Voce e chitarra, e pezzi vecchi suoi, bello, grandissimo. Abbiamo una grande band, come sempre. Sì, sì, grande band, grande lui. Beh, grande lui, bello. Gli assoli di 16 minuti. Come si conviene. Sì, sì. I cordi Corsus Vettiglia. Sì, sì, l'ha fatta. L'ha fatta, bellissima, bellissima, ancora meravigliosa. Uno dei pezzi più belli mai suonati, mai scritti. Lui ha delle melodie, delle cose, è grandioso per me. Sì, un grande. Lui riesce a fare le cose elettriche, le cose acustiche a suo piacimento. Ha fatto delle cose anche brutte, perché ha fatto i famosi dischi con l'elettronica. Ma l'ha fatta apposta. Era fatta apposta, effettivamente. Quello è proprio brutto, ma volutamente. Probabilmente. Sì. La sua discografia è immensa. Grandissima. Ha fatto delle cose meravigliose. È un grande, come tutti i grandi. È 70 anni anche lui, mi pare. Sì. Siamo là. Ci dobbiamo sbrigare. Sì. A sentirli più spesso. Più spesso. Beh, è venuto spesso per volte. In forma splendida poi, Beh, okay. La musica tiene ben vivi, vedi che Keith Richard, più vivo di lui, guarda quante ne ha fatte, lui è ancora vivo e vegeto, lui ne raccontava nel suo libro meraviglioso che consiglio a tutti di leggere, adesso si trova anche in edizione economica, quindi racconta, racconta come si vive da Rolling Stones. È bello anche il libro di Neil Young. Anche quello, sì. Salta di palo in frasca ogni tanto, come lui. Va bene, come lui, fa parte del personaggio, chiaramente. Adesso ritorniamo a Valerio. Dunque, questo è un disco che uscirà, che è uscito da qualche giorno? Sì, dal 12 ottobre. Dal 12 ottobre, distribuzione hai fatto tutto te? Sì, bene. Ho tagliato i ponti con le etichette discografiche. Hai deciso di tagliare i ponti? Sì, perché questo no, questo mettece quello, là non va bene, non me l'avrebbero mai fatto fare un disco così. Allora ho fatto tutto quanto da solo e poi la distribuzione tramite internet. Ah, direttamente. Chi vuole il CD arriva a casa, chi vuole l'MP3. Scriva. Sì. Basta scrivere e dopo il CD arriva. Se no, le MP3 su tutti quanti gli store, Amazon, iTunes, queste cose così. È stato difficile fare tutto a casa da te? No, ti ha dato una mano, al di là dei musicisti. Il disco l'ho fatto in studio. Sì, ma con chi? Con che studio? In che studio hai fatto? Uno studio della vecchia produzione, loro sono molto disponibili nei miei confronti. E poi mandavo i brani al musicista che aggiungeva l'organo a casa sua. Sì, gli assoli suoi praticamente. Sì, sì. E poi abbiamo assemblato tutto. A parte che gli strumenti sono pochi, perciò è stato facile. Sì, è vero, però è sempre un impegno, chiaramente. Sì, sì. Tu, ricordiamo che Valerio non ha solo questo impegno come solista, ne ha tanti altri che continuano ad aumentare sempre di sempre più. Sempre di più. E poi loro sono dei ragazzi impagabili, come dico io, in tutti i sensi. Impagabili in tutti i sensi. Cosa dici, Gilles? Tutti i sensi, ha detto. A tutti i sensi. Chiaramente. Benissimo, sono le 23:29, quindi abbiamo circa mezz'oretta. Adesso cominciamo con un altro pezzo. Cosa hai scelto adesso da fare? Pecod, è vero? Che no, la canzone del deserto. Perché prima la scaletta è stata cambiata dal vivo. Per le accordature. E la canzone del deserto, ci fermiamo un momento perché dobbiamo citare Branduardi e Gigi Magni. Sì. Perché hai preso un pezzo da un film di Gigi Magni e un pezzo di Branduardi. La colonna sonora non è tutta di Branduardi, alcuni momenti. Sì. E questo è un momento branduardiano. La passione, Ponzio Pilato. Esatto, secondo Ponzio Pilato di Gigi Magni. Con Manfredi. È importante che questo pezzo, l'ispirazione è nata anche da un viaggio che hai fatto a Gaza. Parliamo di questo viaggio a Gaza, che è molto importante. Allora, è un'esperienza fuori dal comune. È stata una settimana. Sette giorni a Gerusalemme e 5 a Gaza. È un'esperienza fuori dal comune, un mondo a parte. Non è vero tutte le cose che ci raccontano sui musulmani, che sono cattivi, che gente, so come noi, non gli importa niente neanche a loro della guerra, non la sopportano né da una parte né dall'altra. È la gente che viene martoriata per loro siamo tutti uguali. Molte persone mi dicevano: ma se fosse per me possiamo vivere tranquillamente senza noi con le persone dall'altra parte. Poi certo. I bambini hanno una dignità nel vestirsi con poche cose, perché calcolate che su una piccola striscia di terra che saranno 20 km vivono 5 milioni di abitanti. Cifra enorme. Campi profughi, distruzione, non c'è la mondezza dappertutto perché non c'è la discarica, gliel'hanno bombardata. Si mettevano la sera con la nave davanti al porto e bombardavano la città. Ho visto pure dei momenti abbastanza difficili. E i bambini hanno una dignità quando la mattina vanno a scuola. Li vedi accompagnati col papà, con le mamme, con un'educazione, è una cosa impressionante la fierezza di quel popolo. E anche dall'altra parte, quando chiedi queste cose, la maggior parte della gente comune dice: ma se fosse per me non ci sarebbero guerre, sarebbe solo una vita normale praticamente. Sì. La canzone del deserto, il deserto hai citato chiaramente. Allora, il deserto, perché da lì nasce, da quei posti nasce la religione monoteista. E quando uno va in quei posti si rende conto, perché lì, a differenza nostra, la religione monoteista, perché l'elemento principale importante, cardine è Allah. In quel caso è Allah oppure per noi, Gesù Cristo o qualche altro, o Giaveo, esattamente. Perché il deserto è una cosa talmente importante, le distese senza nulla. Ho visto della gente che raccoglieva le pietre, come si faceva qui, con i carretti, con gli asini, per portarli a costruire le case. Il deserto è l'elemento principale, e perciò il Dio è unico, perché il deserto è unico. E infatti Luigi Magno, che è una persona molto intelligente, che è un regista romano, chiaramente. Molto grande regista, lui dice: uno è solo il Signore perché uno è il deserto. Lui spiega perché, a differenza dei nostri Giove, lì il Signore è uno solo, la fonte di vita è una, certo, ed è bellissimo che richiama. E lui dice: perché tre sono i profeti, lui cita Abramo, Maometto e Gesù, però uno è il Signore, perché siamo tutti uguali. Ed è fantastico. È bello anche il film, che non penso che sia più disponibile. Lo fanno anche poche volte. Qualche volta l'hanno fatto vedere, esattamente. Un e po' blasfemo intanto, forse, perché non lo passano. E tu hai scelto praticamente la colonna sonora di Branduardi. Sì. Si è ispirato a quella. Sì. Una tua rivisitazione, possiamo sì, dire questo. Sì, rivisitazione blues. Rivisitazione scarna. Blues, assolutamente scarna. Non proprio branduardiana, ma parte da te, chiaramente, sì. Che non sei Branduardi. Non c'ho neanche la voce del Branduardi. Esatto, e non neanche i capelli. Neanche i capelli, stanno a cascare, e neanche il violino. La bravura da musicista. Da musicista, lui aveva una band non sì, da poco. Musicista. È un grandissimo musicista, un grandissimo, non soltanto di violino, è un grandissimo musicista. Sì, sì, sì. È anche raffinato cesellatore di armonie, possiamo dire. E anche ha fatto dei bellissimi brani, bellissimi pezzi. Che ha fatto tante colonne sonore, sì. Anche di film televisivi, sì. Come Stati Buoni se potete, sì. È il più famoso, e tante altre cose. Tu hai scelto questo pezzo, adesso lo sentiamo, è un po' particolare, è un pezzo blues, chiaramente. Sì. Ok. Solo è il Signore, perché uno è il deserto. E Abramo vide un angelo, camminò con il Signore 175 anni, fu il suo tempo e poi non fu più. Solitudine di pietra, verso acque tranquille, vanno tre carovane, perché tre sono i profeti, ma è uno, uno è solo il Signore, perché uno deserto. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ti sento parlare di Terra Santa, Valerio, mi fai venire in mente un libro che ho letto lo scorso anno di Pino Petruzzelli, no? Che è uno scrittore, non so se hai avuto mai modo di leggere, che è un libro bellissimo di vari episodi e parla appunto, dedica dei capitoli alla Terra Santa, Terra Violenta, agli ultimi nomadi, il palestinese che costruisce il muro. Ed è veramente molto molto toccante, pieno di significato, molto molto bello. Pino Petruzzelli, se avete occasione, Chiare Lettere ve lo consiglia. Ok, adesso parliamo. Musicalmente è un pezzo molto interessante, perché musicalmente è un pezzo del Delta. Sì. Stavolta ti sei buttato Robert su Johnson. Robert Johnson. Proprio Robert Johnson. Come mai un pezzo così lontano nel tempo, ma vicino, visto che siamo nel 2013 e sono le 23:37 di oggi, mercoledì? Perché, a parte che il blues nasce dalle popolazioni indigene, certo, che sono state importate in America. Importate in America. Anche so con forza. Con forza, il documentario di Martin Scorsese è bellissimo, dal mare al Mississippi, e ho cercato questo legame, perché è molto spirituale il blues come musica, anche certamente il richiamo a forme di trance, insomma cose, sì. Stiamo parlando di cose serie, chiaramente sì. Ma quando si parla di Martin Scorsese bisogna parlare di cose serie, chiaramente, visto che ha fatto un meraviglioso anche documentario sui Rolling Stones, grandissimo, anche su Dylan, esattamente. È un musicista, c'è cioè un cineasta, un costruttore di immagini molto interessante, molto bravo, che ama molto il rock, chiaramente. Nei suoi film non smette mai, la colonna sonora sotto è sempre presente, finisce un pezzo e ne comincia un altro, e livella le emozioni, quei bravi ragazzi, è ininterrotta la colonna sonora. Bellissimo, è un grandissimo, sì, come si dice, non artigiano, un grandissimo regista, ecco, per dirla, anche se è riduttivo dire regista. Ma su Toro Scatenato non è presente il rock, in bianco e nero. Solo l'unico, sì, esattamente. Il resto, che il film è più rock che ha fatto. Esattamente. ritornando al discorso, tu hai usato lo slide. Lo slide, sì. Che è una specie di digitale che usavano molto nel sud degli Stati Uniti. Sì, perché loro rompevano le bottiglie, si ubriacavano, spaccavano le bottiglie, rimaneva il collo della bottiglia al dito. Esattamente. E la storia di Robert Johnson, che non era buona a suonare lo slide, il coso, che sparisce per 3 mesi e torna. Dopo essere stato con Ike Zinnemann. Suonava nei cimiteri, e questo è bellissimo. Da sì. Un suono bello. Bello, molto bello, blues classico. Poi ha ispirato una montagna di gente, sì, proprio sì. Un fiume di musicisti. Ultimo, uno di tanti, anche Eric Clapton, grande sì, amante di Robert Johnson. Ha fatto un bellissimo disco, mi ricordo. Sì, dedicato a Robert Johnson, ma tantissimi hanno dedicato la musica a Robert Johnson. Ricordiamo che Robert Johnson è all'inizio del 1900, quindi tantissimi anni fa. Però è ancora attuale per certi musicisti. È la base. Quando senti i suoi dischi sembra registrato ieri. Sembra registrato ieri. Usa una tonalità anche vocale molto moderna. Quello è buono anche fra 200 anni. Sì, molte sì, delle sì. cose che fanno adesso, penso che fra 200 anni si possono ricordare. Lui si ricorderà fra 200 anni, sicuramente. Quindi ti sei buttato nel blues, perché il blues, abbiamo detto, per rinnovare per l'inizio di trasmissione, il blues è il tuo DNA, sì, c'è sì. poco da fare. Sporcato dal rock, ma non è sporcato, il rock deriva dal blues. Sì, sì, le battute inizialmente erano le stesse. Erano sempre le stesse, sì. Chiaramente. Poi il blues ha allargato, dal blues è partito tutto, sì. si è sviluppato tutto. Come diceva giustamente Keith Richards nella sua biografia, si parte tutti dal blues, sì. si continua a fare sempre il blues. Dalle accordature aperte. Esattamente, blues. Si parte da qui. È molto più semplice suonare la chitarra con le accordature aperte in blues, puoi fare qualsiasi cosa. Il rock viene più semplice, più semplice. La potenza. Esattamente, ma i Rolling sono sempre partiti, cioè i Rolling è proprio un gruppo che è partito dal blues e rimarrà sempre sì, blues. Sì, sì. Gli altri un po' meno, i Rolling Stones, gli altri un po' meno, però di Muddy Waters. Esatto, Muddy Waters era il grandissimo, cioè un fonte ispiratore al massimo. Diceva sempre nella biografia Kate che ha imparato il blues da Brian Jones, non so se ti ricordi, sì. che praticamente aveva dei dischi americani e tutto è nato da là, al di là di questo. Abbiamo citato Kate Richards per dire uno che ama il blues come te, praticamente tu ami il blues, perché Dylan ama il blues, sì, fa dei blues anche se lo fa sì, in lo maniera fa, sua alla sua conoscenza, cioè, li trasforma. Chiaramente la musica americana parte sempre da qui. Siamo arrivati alla fine del disco, ma non alla fine della trasmissione, abbiamo ancora circa 20 minuti. Adesso dedichi un pezzo a un tuo grande amore, a Moby Dick. Il disco, il libro di Merle. E quante volte l'hai letto il libro di Merle? Sette volte. Ecco. Allora, 4 volte letto, 2 volte audiolibro. Il film non so quante volte l'ho visto, quello di John Huston. Esatto, quello famoso. Bellissimo, Gregory Peck. Come mai tanto amore per un libro epocale, perché l'hanno letto tantissime persone, Moby Dick. Perché Melvin? Perché Melvin? Cosa ti ha ispirato, allora, Melvin? Perché come Agab non riesco a capire la balena. Allora cerco ogni volta di trovare la balena bianca. Il mistero della balena bianca che... Ed è in ognuno. È il mistero della vita. Il mistero della vita, la balena bianca è certo. In ognuno di noi. Facciamo le cose per colpire la balena. Io faccio la musica, perché la mia balena bianca è la musica, la scrittura. Fa dei viaggi per musica, anche se delle volte mi mettono nei guai seri, come ultimamente mi è successo, tu sai prima per raccontare. Sì, certamente. e non c'è niente, non ti può fermare niente, come il capitano Agab. Quando uno ha un'idea fissa in testa, la sua balena bianca la insegue fino a quando non lo porta o alla gloria o alla distruzione. Ecco, un'idea fissa in testa, e questo è importante, continuamente va avanti, perché deve trovare, sì. E non lo trova mai. No, è quello bello. E ognuno di noi non lo trova mai. Non lo trova mai, esattamente. C'è ammirazione allora su Agab. Sì, io lo adoro Agab. Il capitano Agab è molto più di Ismaele e degli altri dell'equipaggio. Non c'ha nulla, non lo fa. A parte che una volta avevo scaricato un audiolibro di Moby Dick. Sai, se l'audiolibro è fatto bene. L'hai acquistato. No, l'ho scaricato perché era uno che fa l'attore. Fa questo sito che leggi i libri. Però Moby Dick è fatto da un romano. Si può sentire. Oh, ecco la balena, andiamo a dire un po' di tono. A terza pagina Agab che dice, cercava di leggerlo seriamente, però con l'inflessione romana. E arrivò la balena bianca e la sua mostruosità sembrava proiettile. Però capita anche questo. Sì, sì. Però anche quello ti fa conoscere la balena bianca. Sì, sì, sì. Anche l'inflessione romana. Sì, sì. Ma ci vuole anche. Anche tu hai inflessione romana, però ti comporti bene quando prendi un pezzo di questo genere. Sì. Non hai nessuna inflessione, no. Assolutamente. Beh, insomma, intanto esce fuori. Ma sì, minimale, proprio minimale, sconosciuta. Quindi abbiamo questo pezzo dedicato al libro, ma dedicato anche alla vicenda, dedicato al modo di vivere, sì. Dedicato al modo di andare avanti, al di là del libro. Sì, ci sono vari personaggi che si muovono in questo pezzo. Il capitano Agab, il profeta che è presente anche in libro, il profeta Elia, che dice Agab non partite, perché se partite farete una brutta fine. Io ho dato anche un'altra spiegazione al profeta, che ho aggiunto delle cose che nel libro non ci stanno. Dice, questo non l'ho sentito, lo so io, insomma, sono tante volte che ho letto, ho colto. Ma sei cantautore, mica per niente. puoi inventare, puoi allargare, come possiamo dire. Questo. Però è il pezzo che forse è più difficile da suonare anche del disco, perché ho cercato di dargli. Ecco, una cosa però dobbiamo sottolineare: questo pezzo è disponibile per chi ha il 33 giri, sì. Perché è stato stampato anche in 33 giri. Dobbiamo dire ste robe. Sì, però hanno fatto un errore su Amazon, hanno invertito, m'hanno tolto. La canzone del deserto, se uno compra su Amazon, e hanno messo Peckwood. Ah, perfetto, hanno fatto questo errore. Ma hanno fatto questa cosa. Questi sono inglesi. Può capitare. E come mai hai deciso di stampare anche in vinile? Pochissime copie, per mandarli la maggior parte ai giornali, alle riviste. Alle riviste così. Così per le recensioni hanno una cosa che li attira di più e la fanno. Vedi. Cosa commerciale. Mi dicono che devi suonare. Questo dall'altra parte. Dicono le ore che stai là e vedo di fa. Mo veniamo da là e venite qua a te. Qua si impara, hai visto? Qua si impara a fare anche qua a Blu Radio Veneto. Fanno anche lezioni di mimo. Ma il regista decide. Non riuscivo a capire, infatti. Sta ballando la tarantella, sta a fare i seri su Moby Dick. Lui balla la tarantella che va in Se muove. Ok. Vado. Sì, vai. Sono un tono di serietà, ma... Bianche ossa lucenti la nave adorna, i ramponi sono bollenti, ogni muscolo è pronto. Dov'è quel marinaio dal cuore d'avorio? A prua signore, ma il suo è un credo perduto. Thank you. il profeta del porto, rum e foglie di coca. Brinda agli abissi profondi e alla sposa annegata. In passato anch'io mi lanciavo oltre la nave. Avevo il cuore in fiamme e cacciavo con ardore. Il capitano è convinto che Dio sia nascosto. Dai tempi remoti, Signore, nel ventre del mostro. E ha giurato di averlo sentito cantare. Dal profondo lo chiama con il suo vero nome. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Materialmente avremmo finito la presentazione del disco, ma non è proprio così, perché abbiamo ancora circa 10 minuti. E una cosa volevo chiederti, Valerio, mentre stai accordando la chitarra dal vivo, tutto dal vivo, 23:50 quasi, erano solo 8 pezzi o c'erano qualche altro pezzo che volutamente l'hai lasciati nel cassetto? C'erano. Come mai solo 8 ne hai? Solo 8? Perché gli 8 erano i migliori? No. Erano quelli che andavano meglio nel... Nell'insieme della storia. Sì, nell'insieme della storia. Però gli altri sono là, pronti. Sono pronti per fare il disco. Per un'altra... Di Arangio Rock, adesso. Ah, adesso li fai per quel motivo là. Sì, con un altro ancora, oltre a quello fatto con Antonio Zitti, quello con le ombre elettriche. Quindi... Poi me li tiro, perché basta, ho fatto più dischi io... C'è qualcosa che si può dare una definizione di concept album, Maurizio? Secondo me sì, il concept album, secondo me qui c'è la definizione, cioè l'input della vita, del modo di andare avanti nella vita. E l'acqua è vita, sì, è la vita, sì, che è al centro del discorso tuo, l'esistenza più che vita, sì. Esistenza. Tutti in svariati momenti, in svariate immagini, ma è sempre l'esistenza. Sì, e tutti incrociano l'acqua più o meno nel racconto. Tutti incrociano l'acqua. Sì, l'acqua è la parte più importante del lavoro, perché l'acqua è la fonte della vita, sì, chiaramente, della vita. L'acqua, la vita è nata dall'acqua, chiaramente. Quindi è questo il motivo, forse l'input che ha portato alla costruzione di questi 8 pezzi. Ed era questo che appunto mi facevo riferimento. Benissimo, 8 pezzi, sì, ripeto, si chiama Acque Alte. Chi lo volesse avere, come può fare? Allora, può scaricarlo in MP3 sui vari siti legalmente, che conoscono tutti. Legalmente, chiaramente. E può, se no, spedire per l'oggetto una mail a ilponte2010@gmail.com. Uh-huh. Mi manda una mail e io provvederò a spedirgli il disco. Questa fotografia in copertina chi te l'ha fatta? Quella là è una foto stranissima, perché me l'ha fatta sembra mia figlia di 4 anni. Ah, bello. E poi il grafico l'ha messa tipo fotografie, quelle là vecchie dei Napoli. Sì, dei esattamente. Che si trovano, sì, dopo un periodo, sì, si trovano, sì, dopo un periodo di tempo, sono un po'... Quindi sempre legato all'acqua. Sì, sempre, sì, legato all'acqua, esattamente. Beh, acqua e alte, giustamente. Quindi l'idea della fotografia di tua figlia l'hai buttata a te. Sì, sì. Esattamente. Hai detto, guarda che foto che mi ha fatto, sembra bello, ho detto. Dici questa? No, è una cosa... L'ha fatta per scherzo poi, perché facevo il mostro, facevo le facce, lei mi ha fatto... In un momento, sì. E tu hai detto, no, va bene, questa può andare per il disco. È una cosa positiva. Valerio, quanti CD hai fatto da quando hai iniziato? Ma sai che non lo so, aspetta, allora, 6 o 7, adesso non mi ricordo. Ma ne hai fatti tantissimi, sei al 97 che suoni. So quanti anni ha, uno ogni 2 anni. Vabbè, insomma, non tantissimi, però una buona media. Sì, se chi sì. ne fa uno ogni 10 anni, sì. Ci sono stati dei cambiamenti professionali rispetto a questo CD o hai seguito sempre un filo conduttore? In che senso? Dal punto di vista anche musicale. Rispetto agli altri lavori. Arrangiamenti? No, ho fatto la traccia base, poi i musicisti erano liberi, una volta ascoltato il pezzo, da suonare quello che gli piaceva farci sopra. Poi se, buona la prima, tutto quello che mi hanno dato ho messo sopra il disco, non mandava tanto, perché è un disco di stati d'animo, perciò dire no, fammi così, fammi no, va bene quello che hai fatto, e poi lo, non neanche ho tagliato, non ci stanno tagli. Comunque sempre su base di chitarra acustica. Chitarra acustica e voce, sì. Cioè impresa diretta. Gli interventi dei musicisti li hanno fatti a loro idea praticamente. Sì. Sono intervenuti nel pezzo che tu hai dato. Sì, come se stessero suonando dal vivo. Esattamente. Andate. Quindi è un disco praticamente dal vivo, anche sì, se è stato costruito in due fasi differenti, sì, ma praticamente sì, dal vivo. E tu hai detto che farai solo tre date. Sì. Basta. Sì. Non me va. Non te va per i problemi che abbiamo detto, non ci sono i locali, eccetera. Però tre date, quelle sì, sì, sì, le farai. Sì. Una è stata qua, no. No. Allora, stiamo prendendo una vecchia torre al centro di Roma, a Largo Argentina. Cosa vuol dire una vecchia torre? È una torre dismessa che dentro ha dei locali. Ah, c'è un locale praticamente? No, non c'è il locale. Ah, non c'è il locale. Sono le cantine, ogni tanto fanno delle rappresentazioni teatrali, queste cose così. E sono lì dentro in acustico, sta al ghetto, vicino al ghetto, Morgana. Poi al Pantagruel, e poi sto aspettando una data vicino a Bologna per un festival di Fabrizio De André. Ah, però hai parlato anche di una data piemontese. Al Pantagruel. Quello, sì. Poi basta. Poi sono col gruppo. E poi sono col gruppo. E mi diverto. Comunque a me Roma dà sempre l'idea che della vecchia scuola del cantautorato. Cioè, dove ci siano ancora dei posti dove si riesce a suonare, dove il cantautore sì, però può devi, suonare. Devi essere molto simpatico ai gestori. No, ai gestori, all'ambiente dei cantatori. Ah, quindi ci sono, ma sono devi sempre sorridere, sempre col sorriso così, che ogni dice ciao, come stai? Io ti ammazzo, stai bene. Se ti fai vedere un po' che. No, ti mettono da parte. Sì, non devi sempre dire che sono bravi e tutto quanto. A me no, non ce vado, faccio prima. Sei bravo, ogni volta tu lo devo dire. Quanto sei bravo. Beh, sicuramente stasera sei stato bravo. Ah, io vabbè. Mia nonna diceva sempre una cosa: quando veniva qualcuno a casa che portavano le cugine, i fidanzati, sì, diceva però nonno è tanto bravo. E mia nonna diceva fallo essere pure cattivo. C'era, ascoltandoti un attimino, così anche questa sempre la. Parlando di musica, no? Vedevo poco tempo fa un film, una biografia su Glenn Miller, che lui non era mai contento perché cercava sempre alla fin fine il suo suono, il suono, che poi alla fine l'ha trovato. Tu hai trovato il tuo suono? No. E io voglio un suono sporchissimo che si sente che sbaglio mentre sono dal vivo. I musicisti sono contenti da andare per i fatti loro senza essere legati. Ma se non è il suono sporco è... Ma non è tanto facile, no. Bisognerebbe andare sul jazz allora, forse. No, sul rock negli anni lo fa il suono, sì? No, sporco. Sporco, quello, ma lui può farlo. Io voglio musicisti. Io Maurizio non so ha detto lui può farlo, tu no. Me lo dicono pure i musicisti. Mitico Maurizio. Quando è quello che gli dico pure, quello che dicono pure a me, dice questo, ma quello è lui, io. Puttana. Ma uno cammina, che ce frega, camminano uguale. Almeno abbiamo fatto quello che ci piaceva, ci hanno menato. È vero. Vabbè. Sì, ho capito. già bel coraggio ad essere menato, però. Sì, voglio il microfono, quello là che rende la voce gracchia. Okay. Voglio fare quelle cose così. Sì, giustamente. Hai preparato un ultimo brano? Sì. Pezzo tradizionale. Sono mettiamo adesso. Quanto è rimasto? Manca 6 minuti complessivamente. No, circa. No, 4 minuti. 4 minuti, sì. Circa. Qui 2 minuti ci sono per finire con la musica. Quindi ci stiamo. Se vuoi chiedere qualcos'altro ancora. No, Valerio, ci possiamo salutare dicendo un'altra volta che il disco si chiama Acqua e Alte, che è uscito il 12 ottobre, quindi qualche giorno fa. Che bisogna comprarlo assolutamente, Valerio. Sì, perché insomma compratelo, perché è un disco molto bello. Esattamente. È molto interessante. No, ma è bello, è bello. È bello, sì. Lo dite voi. No, è bello. quando un nostro direttore artistico come Alberto Prisco invita i musicisti, lo salutiamo qui davanti, vuol dire che invita sempre i musicisti di un certo peso, e Valerio è un musicista di un certo peso, anche se è romanista questo. Il certo peso pure, perché se continua a mangiare così fra poco aumenta pure il peso del musicista. Personalmente ti ho detto prima, Valerio, a me piace tantissimo questa voce un po' roca, che dà veramente un valore al, a quello che vuoi comunicare e su, su quello che scrivi. Grazie, è laringite. Comunque è stata veramente una serata piacevole, Maurizio. Bello, piacevole perché Valerio ha presentato tutti i pezzi dal vivo, e quello è importante. Non abbiamo, non abbiamo toccato il disco. Che non è facile, perché abbiamo delle pause a volte. Qua. Esattamente, tutto siamo andati avanti tutti, tutto di fila, escluso il pezzo di Antonio Tirilli che era da disco, però... Spero che la gente sia piaciuta. Io penso proprio di sì. Credo di sì. Con cosa terminiamo, Valerio? Allora? Con un pezzo tradizionale del 1500 romano. Benissimo. Allora ringraziamo Gil in regia. Grazie. È stato straordinario. E ringraziamo Alberto Pisco, il nostro direttore artistico e curatore. Grazie, una maglietta dei colori sociali ben conosciuti. Ti vorrà per sempre anche bene, della Valeria. K, bravo. Del Torino. Potevi mettere il colletto giallo, era a posto. Grazie Valerio Billeri, Acque Alte, suo ultimo disco. Il titolo del pezzo? Canto del lavoro. Buonanotte a tutti e grazie ancora. Grazie a tutti, buonanotte. Sicuro, se tu sapessi quanto qua ho cambiato, mi mancano due paoli a fare da scudo, ma non te posso di quanto ho sudato, son mezzo morto, un mese schianta il cuore, e l'anima ne va al conto suo, mannaggia a me quando ci ho pensato, e tutto questo per il imbrigante. Spasso, chi bella vita, chi da qua del fosso, io tanto ho lavorato, niente posso, e quando scende sera me ne casco, e quando scende sera me ne casco. Si disfortuna di stanno al mondo, uno di questi me posso chiamare, butto la paglia a fiume e bevo a fondo, dell'altri vedo il sangue galleggiane, dell'altri vedo l'oro galleggiane, dell'altri vedo il ferro galleggiane. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Blu Radio.